un po' rapidamente, come fare un esercizio per rilassare il corpo. And then slowing down, left, right, left. E poi rallentando, sinistra, destra, sinistra, destra. And then slowing down, lifting, moving. E poi ancora rallentando, alzare, muovere, abbassare. And then just see how slow you can go. And remember, you're feeling the sensations in the foot, that's all, just the sensations. E cercate di capire fino a che punto potete rallentare e attenzione alle sensazioni nella pianta del piede, solamente la sensazione. Just the feeling of the foot peeling off the floor. La sensazione del piede che si stacca dal pavimento. Lifting up against gravity. E si alza contro la forza di gravità. See, what's the feeling of that? What's the feeling? Qual è la sensazione di questo movimento? And then with gravity falling forward. E poi con la gravità avanti, avanti. And then down towards gravity. E poi sempre giù nel senso della gravità. And then the pressure. E poi la pressione. 2 feet. 2 piedi. On the floor. Sul pavimento. And the next foot stops. E poi dopo parte il successivo passo. Yeah. You can even do it now. If you put your hand on your thigh. Si può anche fare mettendo la mano sulla costa. Provi. Provate. Provate. You see? And then just peel the hand off. You see? E poi tirare su la mano lentamente. And then just the feeling of the hand slowly lifting up against gravity. You feel the weight. E poi sentire la sensazione della mano che si alza contro la forza di gravità, il suo peso. And then pushing forward. E poi spostarla in avanti. And then down. E poi giù. And then the pressure. E poi la pressione. And the rest. E il riposare la mano. Posare la mano. See? The 3 different feelings. Sono 3 sensazioni differenti. In the air. In fact there's 4 because of pressure. Realmente sono 4, c'è anche la pressione. Sì? Ecco. Happy walking. Felice camminata. So those of you who have not done it.